pulita, ma guardate di quelle vite fatte, fatte così. Voglio una vita che se ne frega e se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, oh, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come l'estate a bere del whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno perso per i cazzi suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei film. Voglio una vita esagerata, voglio una vita come Steve McQueen. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai. E poi ci troveremo come l'estate a bere del whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno ricorrere i suoi guai. Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega, che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. You know.